Gli pareva 1000 anni d'esser fuori e lontano da quell'osteria, da quel paese. E più di 10 volte aveva detto a se stesso: andiamo, andiamo. Ma quella paura di dar sospetto, cresciuta allora oltremodo e fatta tiranna di tutti i suoi pensieri, l'aveva tenuto sempre inchiodato sulla panca. In quella perplessità pensò che il ciarlone doveva poi finire di parlare di lui e concluse tra sé di muoversi appena sentisse attaccare qualche altro discorso. «È per questo», disse uno della brigata, «io che so come vanno queste faccende, che nei tumulti galantuomini non ci stanno bene, e non mi sono lasciato vincere dalla curiosità e son rimasto a casa mia. E io non mi son mosso», disse un altro. «Io», soggiunse un terzo, «se per caso mi fossi trovato in Milano avrei lasciato in perfetto qualunque affare e sarei tornato subito a casa mia. Ho moglie e figliuoli, poi, dico la verità, i baccani non mi piacciono». A questo punto l'oste, che era stato anche lui a sentire, andò verso l'altra cima della tavola per vedere cosa faceva quel forestiero. Renzo colse l'occasione. Chiamò l'oste con un cenno, gli chiese il conto, lo saldò senza tirare, quantunque le acque fossero molto basse. E senza far altri discorsi andò dritto all'uscio, passò la soglia e a guida della provvidenza si camminò dalla parte opposta a quella per cui era venuto. Basta spesso una voglia per non lasciar ben avere un uomo. Pensate poi due alla volta, l'una in guerra con l'altra. Il povero Renzo ne aveva da molte ore due tali in corpo, come sapete. La voglia di correre e quella di star nascosto. E le sciagurate parole del mercante gli avevano accresciuta oltremodo l'una e l'altra a un colpo. Dunque la sua avventura aveva fatto chiasso. Dunque lo volevano a qualunque patto. Chissà quanti birri erano in campo per dargli la caccia. Quali ordini erano stati spediti di frugar nei paesi, nelle osterie, per le strade. Pensava bensì che finalmente i birri che lo conoscevano erano due soli e che il nome non lo portava scritto in fronte. Ma gli tornavano in mente certe storie che aveva sentite raccontare di fuggitivi colti e scoperti per strane combinazioni, riconosciuti all'andare, all'aria sospettosa, ad altri segnali impensati. Tutto gli faceva ombra. Quantunque nel momento che usciva di Gorgonzola scoccassero le 24 e le tenebre che venivano innanzi diminuissero sempre più quei pericoli, ciononostante prese controvoglia la strada maestra e si propose d'entrare nella prima viottola che gli paresse condurre dalla parte dove gli premeva di riuscire. Sul principio incontrava qualche viandante, ma pieno la fantasia di quelle brutte apprensioni, non ebbe cuore d'abbordarne nessuno per informarsi della strada. Ha detto 6 miglia colui, pensava. Se andando fuori di strada dovessero anche diventare 8 o 10, le gambe che han fatto l'altre faranno anche queste. Verso Milano non vo' di certo, dunque vo' verso l'Adda. Cammina, cammina, o presto o tardi ci arriverò. L'Adda ha buona voce e quando le sarò vicino non ho più bisogno di chi me le insegni. Se qualche barca c'è da poter passare, passo subito. Altrimenti mi fermerò fino alla mattina in un campo, su una pianta, come le passere. Meglio solo una pianta che in prigione. Ben presto vide aprirsi una straducola a mancina e v'entrò. A quell'ora, se si fosse abbattuto in qualcheduno, non avrebbe più fatte tante cerimonie per farsi insegnare la strada, ma non sentiva anima vivente. Andava dunque dove la strada lo conduceva. E pensava: io fare il diavolo, io ammazzare tutti i signori, un fascio di lettere, io, i miei compagni che mi stavano a far la guardia, pagherei qualche cosa a trovarmi avviso avviso con quel mercante di là dall'Adda. Ah, quando l'avrò passata quest'Adda benedetta, e fermarlo e domandargli con comodo dove abbia pescate tutte quelle belle notizie. Sappiate ora, mio caro signore, che la cosa è andata così e così, e che il diavolo che io ho fatto è stato d'aiutar Ferrer, come se fosse stato un mio fratello. Sappiate che quei birboni che a sentir voi erano i miei amici, perché in un certo momento io dissi una parola da buon cristiano, mi vollero fare un brutto scherzo. Sappiate che intanto che voi stavate a guardare la vostra bottega, io mi faceva schiacciar le costole per salvare il vostro signor vicario di provvisione, che non l'ho mai né visto né conosciuto. Aspetta che mi muovo un'altra volta per aiutar signori. È vero che bisogna farlo per l'anima. Son prossimo anche loro. e quel gran fascio di lettere dove c'era tutta la cabala, che adesso è in mano della giustizia, come voi sapete di certo. Commettiamo che ve lo fa comparire qui senza l'aiuto del diavolo. Avreste curiosità di vederlo, quel fascio? Eccolo qui. Una lettera sola? Sì, signore, una lettera sola. E questa lettera, se lo volete sapere, l'ha scritta un religioso che vi può insegnare la dottrina quando si sia. Un religioso che, senza farvi torto, val più un pelo della sua barba che tutta la vostra. E è scritta questa lettera, come vedete, a un altro religioso. Un uomo, anche lui. Vedete ora quali sono i furfanti miei amici. E imparate a parlare un'altra volta, principalmente quando si tratta del prossimo. Ma dopo qualche tempo questi pensieri ed altri simili cessarono affatto. Le circostanze presenti occupavano tutte le facoltà del povero pellegrino. La paura d'essere inseguito o scoperto, che aveva tanto amareggiato il viaggio in pieno giorno, non gli dava ormai più fastidio. Ma quante cose rendevano questo molto più noioso. Le tenebre, la solitudine, la stanchezza cresciuta e ormai dolorosa. Tirava una brezzolina sorda, uguale, sottile, che doveva far poco servizio a chi si trovava ancora indosso quegli stessi vestiti che s'era messi per andare a nozze in quattro salti e tornare subito trionfante a casa sua. E ciò che rendeva ogni cosa più grave, quell'andare all'avventura e, per così dire, al tasto, cercando un luogo di riposo e di sicurezza. Quando s'abbatteva a passare per qualche paese, andava ad agio, guardando però se ci fosse ancora qualche uscio aperto, ma non vide mai altro segno di gente desta che qualche lumicino trasparente da qualche impannata. Nella strada, fuori dell'abitato, si soffermava ogni tanto, stava in orecchi per vedere se sentiva quella benedetta voce dell'Adda, ma invano. Altre voci non sentiva che un mugolio di cani che veniva da qualche cascina isolata, vagando per l'aria lamentevole insieme e minaccioso. Al suo avvicinarsi a qualcheduna di quelle, il mugolio si cambiava in un abbaiar frettoloso e rabbioso. Nel passare davanti alla porta sentiva, vedeva quasi, il bestione col muso al fessolino della porta raddoppiar gli urli, cosa che gli faceva andar via la tentazione di picchiare e di chiedere ricovero. E forse, anche senza i cani, non ci si sarebbe risolto. «Chi è là?» pensava. «Cosa volete a quest'ora? Come siete venuto qui? Fatevi conoscere! Non c'è osterie da alloggiare?» «Ecco, andandomi bene quel che mi diranno se picchio, quando anche non ci dorma qualche pauroso che a buon conto si mette a gridare «Aiuto! Al ladro!» Bisogna aver subito qualcosa di chiaro da rispondere. E cosa ho da rispondere io? Chi sente un rumore la notte non gli viene in testa altro che ladri, malviventi, trappole. Non si pensa mai che un galantuomo possa trovarsi in strada di notte se non è un cavaliere in carrozza. Allora serbava quel partito all'estrema necessità e tirava innanzi con la speranza di scoprire almeno l'Adda, se non passarla in quella notte, e di non dover andare alla cerca di giorno chiaro.